I want to carry on just from this paper on the Vipassana interview. But before that, let me just say a few words about the chanting. Quindi vorrei continuare con il discorso dove abbiamo lasciato ieri sera sul colloquio di Vipassana. Però prima di iniziare vorrei dire qualcosa sulla recitazione. Hopefully we'll have a little translation for you before too long. Probabilmente si spera che avremo una traduzione di questi canti prima o poi. The first is taking the three refuges and the five precepts. Quindi il primo è la presa di rifugio e la recitazione dei cinque precetti. And I'll be talking more about that later in the week. E ne parlerò ancora più tardi nella settimana, un po' più in là nella settimana. Then there's the qualities of the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Poi ci sono le qualità del Buddha, del Dhamma e del Sangha. And again, hopefully I'll have opportunity just to make these plain for you. E anche qui spero di avere l'opportunità di rendervele un po' più chiare. And then there's the Buddha's own victory verse. E poi c'è il verso di vittoria del Buddha. And at the end it says that he has attained the unconditioned consciousness. E alla fine dice che lui ha raggiunto la coscienza incondizionata. We have to be very careful with this word consciousness. Dobbiamo stare molto attenti con questa parola coscienza. And he knows that all his craving has been destroyed. Conosce, riconosce che tutta la sua brama è stata distrutta. Then following that is the dependence origination. Poi successivamente c'è l'originazione dipendente. And this is the basic psychology of the Buddha. E questa è la psicologia di base del Buddha. And as far as I've read in books, this is the first time anything like this appears in Indian literature. E da quello che ho compreso leggendo dei libri, è la prima volta che una cosa di questo genere appare nella letteratura indiana. Then of course there are the Vipassana verses. Poi ci sono i versi di Vipassana. And then Metta. E poi dietro c'è il canto di Metta. So the first section is to do with faith, confidence. Quindi questa la prima sezione ha a che vedere con la fiducia o la fede, fede e fiducia. The second is to do with the basic teaching. Quindi la seconda sezione ha a che vedere con gli insegnamenti di base. That's dependence origination. E quindi l'originazione dipendente. Then there's the practice, the Vipassana verses. Poi c'è la pratica rappresentata dai versi di Vipassana. And then there's the translation of that into a relationship, an attitude. E poi c'è come questo si traduce in un'attitudine. And that's metta. E quella è la metta, l'amore. And then from there we get up and without any effort change the world. E poi da lì ci alziamo e senza nessuno sforzo cambiamo il mondo. Spero. Anche io. What kind? Yes. So now I just want to continue down this list because it does take us where I want to go. E quindi adesso vorrei continuare a esaminare questo elenco perché ci porta proprio dove vorrei arrivare. So the next we discussed the schedule, the breath and the noting technique, and I was wondering whether during the day any other questions had arisen. E quindi abbiamo parlato dell'orario, del respiro e di questa tecnica della nota mentale. E mi chiedevo se durante la giornata sono sorte delle domande riguardo a questo. Sul notare o sulla tecnica del respiro? Sì. The breath, noting, everything. Tutto quello che abbiamo detto ieri sera, insomma, su questi primi tre punti. Se c'è una formula magica per agganciare la nota quando la si perde, perché a me capita una specie di blackout, cioè sto seguendo la notazione salire, scendere, poi all'improvviso mi trovo con 4-5 pensieri che sono, non mi ricordo neanche il primo. So there's some kind of magic so that he can hold on to the noting in a way, because he starts with the rising and falling and then he gets lost in a train of thoughts. He doesn't even remember where it all started. Is it just a question of practice? When you get back to the breath, just make a clear determination to stay there. Quando ritorni al respiro, fai determina di restarci. So it is just patient practice. Sì, si tratta di avere pazienza e fare esercizio. Yeah. Remember, the first 3 days, even 4 days of any long retreat is about settling. Ricordo che i primi 3 o anche 4 giorni di qualsiasi ritiro è proprio per stabilizzarsi, cioè sono dedicati allo stabilizzarsi. And it's usual during a retreat for one or maybe two particular mental states to dominate. Ed è una cosa usuale i primi giorni che ci sia uno stato mentale particolare che domina. So one retreat, you might be just falling over all the time, feeling tired and dull, lazy. Quindi ad un ritiro potrebbe essere che per tutto il tempo vi troviate a essere pigri, indolenti, assonnati. And the next one is sort of a jumping beam, you can't stop anything. Cioè quello successivo siete come... Come si chiama questo, jumping beam? Sapete quei fagioli magici? Si chiamano fagioli magici in italiano, non quelli che praticamente come li metti cominciano a girare. Agitati. So whatever comes to us in our meditation, that's what we're working with. Qualunque cosa che arriva nella nostra meditazione è quello ciò con cui stiamo lavorando. So it's a case of just gently doing the practice. Si tratta di dolcemente continuare con la pratica. Expecting nothing. Senza nessuna aspettativa. See? Don't expect it to stop. Quindi non aspettate che smetta. And then you won't be disappointed. In questo modo non sarai deluso. You just keep working, you see. And you'll see, it'll pass. I can't say when, but it will. Everything changes. Continui a lavorarci su e poi passerà. Non ti so dire quando, ma tutto cambia. But this, of course, we all suffer from this, and this relates to our daily life, you see. Ma tutti soffriamo di questo, e questo ha a che vedere con la nostra vita quotidiana. So it makes us, when we go back into daily life, then we have to just make that effort to stop the mind dreaming and thinking whatever it wants. Quindi quando torniamo nella vita quotidiana dobbiamo fare questo sforzo per impedire che la mente si metta a sognare, immaginare. Infatti io mi sono fatto la domanda che volevo fare, se anche nella vita quotidiana, soprattutto nel lavoro, sarebbe opportuno fare la notazione per aiutare la pratica. Yeah, even you can. He said he used it. No, he was asking if it's a good idea to use the noting technique also in your daily life and at work. Yes, some people do. I have a what do they call it? A not a recommend. What when a letter supports what you're doing? What do you call that? I have a recommendation, we say, on my website. Quindi si dice che ha una, non so come si chiama, un consiglio, like something that you suggest? No, it's saying how good it is, the meditation. Una raccomandazione sul suo website, cioè qualcosa che dice quanto vale insomma la meditazione. And in the letter he says how he uses the noting when he's washing pots, cooking, when he's doing anything, and it just keeps his mind right on what he's doing. Ecco, quindi una lettera che ha ricevuto, un'email che ha ricevuto di una persona che dimostra quanto è utile la meditazione, e questa persona dice che lui utilizza la tecnica del notare quando sta anche lavando le pentole o quando sta facendo qualsiasi cosa. Of course you can't do the noting when you're adding up your bills. No, non puoi fare usare questa tecnica quando stai facendo i conti. But any time that you can always use the noting. It's very simple. Però ogni volta che puoi, che riesci, puoi usarla questa tecnica. È molto semplice. Could you say perhaps that the noting is useful to block an object, because I've been used to something else, facing the object, and one way of expressing it was to kind of, by looking at it, you burn it, you look at it and then it goes, you have to go right into it. But as I find using these notes, it just blocks it. Okay. Isn't that a last resort? Because if you just block it by this note, won't it come back? Whereas if you go right into it and burn it out of existence, then maybe it won't come back. Sta chiedendo se l'utilizzo di questa etichetta mentale in qualche modo ha l'effetto di bloccare l'oggetto, di fissarlo, perché così come è stato insegnato a lui, la tecnica è quella di in certo senso puntare l'oggetto, penetrare l'oggetto e poi in qualche modo bruciare l'oggetto in modo che sparisca dall'esistenza, diciamo. Invece utilizzando la nota mentale è come se invece la fissasse, e quindi c'è il rischio che insomma sia più solida o comunque che ritorni. Invece nell'altro caso non ritorna più. Yes, you've actually brought an important point. Effettivamente questo è un punto importante. The noting can be used in a way that you're very subtly pushing something away. Perché questa tecnica del notare può essere utilizzata per allontanare l'oggetto in maniera molto sottile. So you say pain, pain, pain, pain, and you're keeping a little distance from it. Quindi come se tu dicessi dolore, dolore, e continui ad allontanare, prendi distanza. So this would be a mistake. E questo sarebbe un errore. Yeah. The noting should push you into the feeling. Questa nota mentale dovrebbe in realtà spingerti dentro la sensazione. And that's why I say, if the note seems to be in front of the feeling, then this tells the meditator that this intuitive intelligence is still within the intellect, is still caught up in the intellect. Per questo che dico, se questa nota mentale si frappone tra la mente e l'oggetto, questo sta a indicare che questa intelligenza intuitiva è ancora come se fosse intrappolata dentro l'intelletto. There should be a feeling that the note is almost coming from behind, pushing you into the object. Si dovrebbe avere la sensazione come se questa nota mentale venisse da lì dietro e che come se vi spingesse o spingesse la mente dentro l'oggetto. So let me give you an example. I have pain in the knee. Quindi per esempio ho un dolore al ginocchio. So my attention is drawn and I'm using the word pain, pain. Quindi la mia attenzione viene attirata e io uso la parola dolore, dolore. And as I use the word pain, it's pushing me to receive the pain. E man mano che io uso la parola dolore, questo mi sta spingendo a vedere il dolore. As I go close to the pain, I feel a reaction of not wanting to go there, maybe a fear. Man mano che mi avvicino al dolore, io vedo la reazione del non volermi avvicinare. So now, una paura. Excuse me. So now my attention goes towards that reaction. Adesso la mia attenzione si sposta su quella reazione. But I can also keep them both, as it were, in my attention. Ma riesco, posso riuscire a tenerle entrambe nella mia attenzione. I can feel the pain and I can I'm saying pain, pain, and then resistance, resistance, pain, resistance. Quindi io vedo il dolore, dico dolore, dolore, ma vedo anche la resistenza e dico resistenza, resistenza. Now, if the pain remains at a level that I can bear, se il dolore rimane a un livello che io posso sopportare, then this initial resistance begins to disappear. Allora questa resistenza iniziale comincia a sparire. So now I'm very clear that I'm noting pain and feeling pain in the knee. E quindi adesso mi è molto chiaro che io sto vedendo e sto sentendo il dolore nel ginocchio. So now I'm saying pain, but I, as it were, enter into the pain. Quindi a questo punto io sto dicendo dolore, ma in un certo senso sto entrando nel dolore. The grammatical construction that the Buddha uses to get this across is what you call the locative case. Quindi la costruzione grammaticale che il Buddha utilizza per descrivere questo è ciò che viene chiamato il caso locativo. For those of you who are into grammar. Per di voi che sono interessati nella grammatica. He says vedana, vedanu vedana, see? To see feeling in feeling. Vedanu vedana, right? Che significa vedere la sensazione nella sensazione. This is sometimes translated as to see feeling as feeling. A volte è tradotto come vedere dolore come dolore. In other words, he's saying, you know, go into it and really find out what it is. Quello che ci sta dicendo di entrarci dentro per scoprire cos'è veramente. So I'm saying pain, pain, and I'm feeling the pain. Quindi io dico dolore, dolore e sto sentendo il dolore. I go into the pain. Io penetro il dolore. And my noting begins to change. E il mio notare, la mia nota mentale comincia a cambiare. I begin to say maybe tension or heat. Comincio a dire tensione o calore. And the word pain disappears. E la parola dolore sparisce. And as I'm getting down to that level of contact, right? Of contact, for those of you who know dependence origination. Quando arrivo a quel livello, è un livello di contatto, per quelli di voi che conoscono l'originazione dipendente. I'm beginning to see these basic characteristics that which whereby the mind contacts the body. Comincio a vedere queste caratteristiche di base attraverso le quali la mente riesce a contattare il corpo, entrare in contatto con il corpo. We should go into more detail with that later in the week. Ma entreremo maggiormente nel dettaglio di questo più in là nella settimana. It's at this level that the quality of anicca, of impermanence, becomes more obvious. Ed è a questo livello che la qualità di anicca, cioè dell'impermanenza, diventa più ovvia. And the fact that it's just energy, not substantial. E quindi il fatto che è solo energia, non è sostanziale. Then, if I pull back a bit, se io mi tiro un po' indietro, the word pain reappears. La parola dolore ricompare. So now I know that pain is a mental construct. Quindi io adesso so che dolore è un costrutto mentale. That in fact there is, at the feeling basis, no pain. Che a livello della sensazione non c'è dolore. There's only sensation. C'è solo sensazione. See? So now the words are helping us, as it were, to push us into the experience and to begin to discover this combination of the body and mind. Quindi le parole come se ci aiutassero a entrare nella sensazione e scoprire questa relazione tra corpo e mente. But the mental construct is the word, but the pain is something, it's a state no. in the leg. And you, in order to conceptualize it, you use the concept, but surely the pain is independent from the concept. Sorry, can you translate? I didn't get that, I'm sorry. Well, he's saying pain is independent from the word or concept of pain. Non si crea il dolore con la parola, il dolore è indipendente di questa parola. La parola si utilizza per concettualizzare il dolore, no? Sì. Non vedo che la parola crea il dolore c'è. Well, what I would suggest to you is that you follow my instructions and see whether I'm right or wrong. Mi suggerisce di seguire le sue istruzioni, poi vedere se ha ragione oppure no. Yeah, anything else? Any other question? Can I just ask something else, yeah, please? Ho la sensazione che ci sono tante etichette e che ci sono delle etichette che sono utili e altre che forse non sono utili. In certo modo si può dire che la mente attenta funziona come un magnet. Una calamita. E nella misura in cui funziona così, ci sono tanti oggetti che abbiamo repressi che sorgono e vengono verso la coscienza perché possiamo guardarli, no? In queste situazioni, se mettiamo un'etichetta, c'è un bloccaggio e impediamo che questi oggetti così nascosti vengano alla coscienza. Questo è un caso. E un altro caso è, ad esempio, il dolore, che è una sensazione che si impone alla coscienza. In questo caso, lì si tratta di controllarla, non si tratta di farla venire alla coscienza. In quel caso forse sarebbe utile. Non lo so. Yeah, well, in a sense I've answered the first bit before about the role of noting and how to use it skillfully. I mean, to me you're asking the same question. But leave it for the while, and perhaps in an interview we can sort that out a bit more clearly. I feel I've answered. Quindi lui si crede di aver risposto alla prima parte della domanda di Walter. E comunque dice di per adesso di lasciarla perdere per un momento, poi magari in un colloquio potrà spiegarglielo meglio. Any other question about the schedule, the breath, the noting? Qualche altra domanda sull'orario, respiro, il notare? Okay, so I just want to say just a few words about the walking meditation. Voglio dire un paio di parole sulla camminata, sulla meditazione camminata. The first thing is that when you're going anywhere, that is also walking meditation. La prima cosa è che anche se voi state andando da qualche parte, anche quella è una meditazione camminata. Even going from here to where you want to do the walking meditation, that is walking meditation. Anche il fatto di andare da qui a il luogo in cui volete fare la meditazione camminata, anche quella è una meditazione camminata. Yeah, and be very clear to yourself that you're going to this place to do the walking meditation. Quindi che sia chiaro dentro di voi che voi state andando lì per fare la meditazione camminata. And then you bring your mind into exactly the steps that are taking you there. E poi portate la mente proprio esattamente nei passi che vi stanno conducendo lì. This is especially important when you're going for breakfast or for lunch. E questo è a particolare importanza quando andate a fare la colazione o il pranzo. Often you leave the meditation hall and your mind is up there until the body arrives. Quindi a volte voi uscite dalla sala di meditazione, ma la mente è già in cucina prima che si arrivi il corpo. Ecco perché ci sono tante chiamate. That's why there are so many slippers outside. l'abbiamo già fatto molte. So just make that little effort to always, you know, bring yourself back to exactly what you're doing, very deliberate. Quindi fate questo sforzo molto deliberato di riportarvi sempre a ciò che state facendo. Now, when you're in the walking place, make sure that you've established the standing before you begin. Quando siete nel luogo in cui fate la camminata, assicuratevi di aver ben stabilizzato la postura in piedi prima di cominciare. Yeah, sense of standing, you see. Quindi dite stare in piedi. And then making your intention, remember to say intending to walk is the intention. Ricordate che il dire intenzione di camminare è già l'intenzione. Yeah. You're not saying intending to walk and then waiting for the intention to come. Quindi non state dicendo intenzione di camminare e poi aspettate che arrivi l'intenzione. Questo è un mistake che io ho fatto 2 o 3 anni perché da certi insegnamenti sembrava qua, cioè forse io sono. No. Sì, quindi si dà una sensazione. Well, io affermo. Sì. Intendo camminare. Ecco. Well, first of all, there's the intending to walk, and then the empowerment of that intention. Quindi prima c'è questa intenzione di camminare e poi c'è il potenziamento di quell'intenzione. So I think I mentioned this in an earlier talk that there's a distinction to be made between a desire and an act, the actual movement. Io avrei già detto precedentemente che c'è una differenza tra il desiderio di fare qualcosa e poi il movimento, l'effettivo movimento, l'azione. So, one thing you can try to make this distinction is to stand and keep saying intending to walk. Quello che potete provare, proprio per capire questa distinzione, è di stare in piedi e dire a voi stessi, intenzione di camminare. And then keep saying it and feel the desire to want to take the step. Quindi continuate a dirlo e sentite questo desiderio di fare il primo passo. And note that nothing moves. E notate che nulla si muove. Then something moves. E poi qualcosa si muove. So some decision has been made. Quindi è stata presa una decisione. A mental sort of act in which some energy is put into the intention and something happens. Quindi qualche energia mentale che è stata messa dentro l'intenzione per far sì che qualcosa succeda. So we'll come into this a bit more in detail when we discuss karma. E ne parleremo più in dettaglio quando discuteremo del karma. In ordinary daily life we're moving so fast that the distinction between the intention and the action is lost. Nella vita quotidiana noi ci stiamo muovendo talmente velocemente che questa distinzione tra l'intenzione e l'azione si perde. So that's why, you know, always stopping, getting into the habit of stopping in daily life after everything, after something we've done, just allows us to take more control. Ed è per questo che anche solo l'atto di fermarsi dopo qualsiasi cosa che facciamo ci permette di apprendere un po' questa forma di controllo di essere in controllo, to be in control. Yes, just to take more control of our lives. Quindi è come prendere maggior controllo della nostra vita. So then we begin to walk and the purpose is just like the breath, you're just feeling sensations. Quindi uno comincia a camminare e lo scopo è proprio come quello dell'osservare il respiro. Just feeling sensations. Quindi solo sentire le sensazioni. Is there a distinction to be made between the feelings of rising, the feelings of moving, the feelings of falling and the feelings of placing? Quindi c'è una differenza tra le sensazioni che vanno con l'alzarsi del piede, con l'avanzare del piede, con l'abbassare e col toccare. So the more distinct we can make the differences to ourselves, the more sharp this intelligence is becoming. Quindi più chiaramente riusciamo a fare queste distinzioni e più sta diventando acuta questa intelligenza. And we may, you know, the process feels as though it's one continuous process. Quindi si ha l'impressione che il processo sia un unico processo. Mm. But we must look deeper to see whether that's true or not. Ma dobbiamo guardare più in profondità per vedere se è vero, se è così oppure no. And remember, you cannot, if you force your concentration, it becomes unsteady, it becomes agitated. E ricordate che se forzate la vostra concentrazione diventa instabile, diventa agitata. More be driven by interest, you know, like, am I really seeing this as it really is? Cioè dovete essere più spinti dalla curiosità, dall'interesse, cioè sto vedendo questa cosa com'è veramente. And then at the end, you see, come to that stop. See? Recognize the end of the walking steps. E alla fine arrivate proprio a quel punto fermo dove finiscono i passi. Mm. And then, as you know, intending to turn, and off you go again. E poi anche lì di nuovo intenzione di girarsi e si ricomincia. Yeah. So walking meditation is where we can really develop a good steadiness of attention. Quindi nella meditazione camminata possiamo sviluppare una vera, una buona stabilità dell'attenzione. Because it's neutral feelings. Perché le sensazioni sono neutre. And pretty obvious. È abbastanza ovvio. Mm. So remember that steadiness of attention when it's developed on some neutral feelings is much stronger than that developed on pain or pleasurable feelings. Quindi questa stabilità painful feelings. Questa stabilità dell'attenzione, se viene sviluppata su un oggetto neutro, è molto più forte, molto più potente che non quella che si sviluppa, per esempio, su un dolore. Mm. Even when it is developed on pleasurable feelings, it does have a weakness to it. Anche quando la si sviluppa su sensazioni piacevoli, c'è una sua debolezza. Mm. Because it's dependent on some pleasurable stimulus. Perché dipende da uno stimolo piacevole. I mean, we have no problem being concentrated on a DVD. Non abbiamo nessun problema a essere concentrati su un DVD. If it's a good film, you lose yourself entirely in the film. Se è un bel film, uno si perde completamente dentro il film. So really that's all that needs to be said, I think. Are there any questions? Of course, you don't use the slow walking meditation if you're feeling very heavy or very dull. Ovviamente non si utilizza la camminata molto lenta se vi sentite pesanti o intorpiditi. Mm, and the same with great restlessness. E lo stesso se avete una grande agitazione. Mm, just walk naturally up and down. Camminate allora in modo naturale su e giù. Mm. Are there any questions that have arisen from the walking meditation? Sono delle domande che sono sorte riguardo la meditazione camminata. Ok, quando esprimi l'intenzione di girare, poi riparti, prima di ripartire devi esprimere di nuovo l'intenzione di camminare, cioè ogni cambio bisogna Yeah, so when you say intending to turn and you turn, then again do you again say intending to walk? Yeah, well yes, you stop intending to turn, so stop standing. Quindi fai stop e poi stare in piedi. Yeah. Intending to turn, turning, turning. Girare, girare, girare. Standing. Puoi stare in piedi. Intending to walk. Intenzione di camminare. Mm. I've seen, you can take that to each step if you want. I've seen. So that every step you intending to walk, lifting, moving, placing, stopping. Intending to walk, lifting, moving. You can take it very down to that level if you want. Se volete potete addirittura portarlo a livello di ogni passo, quindi intenzione di alzare, alzare, spingere, abbassare, poggiare, poi intenzione di alzare, alzare. I mean, yeah, I've seen people do that, but none of my teachers ever said to do that. Ho visto persone che lo fanno, ma nessuno dei miei maestri l'ha mai detto. Yeah. In fact, I saw one person just standing against the wall and just raising one foot. Ho visto una persona appoggiata a un muro che sollevava un solo piede. So, It's like this, this is what I thought was happening, yeah? Questo era quello che io pensavo che stesse succedendo. Intending to lift, lifting. Intenzione di alzare. Intending to move, moving. Intenzione di muovere, muovere. Intending to. Intenzione di abbassare. Just keep on one pace. Always in the same place. Walking on the spot. Camminando sempre nello stesso punto. You can try that. I mean, I've tried that. I've done it, and it really, really does make you go right into the sensations of movement. You see. Io l'ho provato. Effettivamente, ti fa entrare direttamente nelle sensazioni del movimento. Sì. Okay. Nella camminata. Cioè, a parte che vabbè, penso che l'abbassamento lo si percepisca meglio quando si affina di più la sensibilità, però volevo chiedere, sì, è opportuno fare la rullata normale, cioè, rullata. La rullata è con la parte di tallone, si chiama rullata, i fisioterapisti la chiamano rullata, roll of the foot. Ah, ok. Sì. Oppure per aiutare, cioè è meglio come fa ad esempio Vante che alza quasi parallelo al suolo il piede. Ah, perché il passo, se no dovrebbe essere, per fare la rullata dovrebbe essere più lungo. To do this rolling lever, the step should be a little bit longer. So he's asking if it's better to do it that way or just to you know, lift it the way you show. You know, it should be as best the natural step, just a bit slower. Dovrebbe essere proprio passo naturale, solo più lento. You shouldn't look like one of these dress horses. Come si chiamano questi cavalli da circo, questi cavalli che quelli che cavano perché quando fai la volata la spinta dell'alluce ti dà un po' di scatto in avanti, cioè non riesci proprio a seguire bene l'avanzamento. When you do this then your big toe kind of pushes the foot ahead, so it's hard to. Well, yes, no. Sensitive to the. Yes, just going forward. Just do it as feels natural to you. Fallo come ti viene naturale. Yeah, it's not. Sei stato molto attento. Cos'è? Sei stato molto attento al momento. Sì. When I was doing the walking meditation outside, I suddenly sort of had this feeling of how nice it was. This nice quiet place with the birds and everything. And then it came to my mind what you said, that even being attached to the countryside can make you suffer. So I didn't know what to do. I just went in. I didn't know how to be, you know, with. What you said about, you know, even being attached to meditation and to the countryside can make you suffer. So I said, how do I deal with this? You know, because I was enjoying it. Mentre stava facendo la camminata fuori è diventata molto piacevole perché stava godendo il silenzio del luogo, gli uccellini, la natura, però poi si è ricordata le parole di Dante che diceva che ci si può attaccare anche alla bellezza di un paesaggio e questo fa soffrire, così come può far soffrire l'attaccamento alla meditazione. Allora chiede come affrontare questa cosa, cosa fare. Well, exactly the same as you do with other sensations, other feelings. È la stessa cosa che fai con altre sensazioni. Just, you know, acknowledge that you're enjoying. Quindi riconosci che stai apprezzando la cosa, no? Apprezzare. And then, you know, turn back to your walking meditation. E poi ritorna alla meditazione camminata. If you want to investigate, you know, the joy of nature, then stand still and just observe how there is that reaction of the heart to nature. Sì, se vuoi investigare questo ambito della gioia del stare nella natura, allora fermati e osserva questa reazione del cuore a quello che c'è. Now, the distinction between enjoying and indulging is very fine. E quindi questa distinzione tra il godere di qualcosa e indulgere a qualcosa è molto sottile. And you really don't know whether you've indulged or not until afterwards when you anchor for being out in the country again. You anchor. When you've got this long wanting to be out in the country. E quindi questa distinzione non è chiara fino a quando tu non ti rendi conto che hai una specie di desiderio di essere di nuovo lì in un bel paesaggio naturale, per esempio in campagna. One way that sometimes you can get in touch with the attachment is that having enjoyed nature. Quindi un modo per entrare in contatto con l'attaccamento è che una volta che si è goduto della natura, You can remind yourself, this also passes away. Uno può ricordarsi, anche questo passa. Yes, every time I used to say, if I would say something like, isn't it a beautiful evening to my teacher, he would say, yes, it's passing away. And I would... Ogni volta che io dicevo una cosa del tipo, ah, una bellissima serata al mio maestro, lui diceva, sì, sta passando. And my reaction was, oh, why don't you shut up? Just let me enjoy. La mia reazione era, ma perché non sta zitto, non me lo lascia vedere? Is that all right? No. Durante la meditazione camminata, quando ho intenzione di partire, avanzo, sento le percezioni sotto la pianta dai piedi. Dopo l'intenzione sollevo, ma quando sollevo il piede che alzo, l'attenzione si deve dirigere verso la pianta di questo piede alzato, oppure può rimanere insieme anche all'altro piede, quello a terra, perché io sento una sensazione anche molto forte a quello che è a terra, che cerca di stabilizzarsi, insomma, questa consapevolezza su tutti e due i piedi. Yeah. È preferibile puntare su un piede e poi l'altro piede. Well, ideally, we should do meditation on a neutral floor, you see, like a wooden floor. Yes, but what he's saying is that he doesn't know whether to put the attention. No, that's what I mean. Ah, yeah, just. Beh, idealmente bisognerebbe fare la camminata su un pavimento liscio, come fosse questo. Because the purpose is to see the arising and passing away of a footstep. Perché l'idea è quella di vedere il sorgere e svanire di un passo. Now, if this foot is standing on nails, it's very difficult. Quindi se quell'altro piede è appoggiato su dei chiodi, è molto, molto difficile. So, if you're walking on a surface which is creating a lot of sensation in this foot, then of course it is difficult. Quindi se cammini in una superficie dove ci sono delle sensazioni molto forti nel piede che appoggia, allora è difficile. Yes, difficult. So maybe you have to walk somewhere else. Forse devi camminare in un altro posto. O tenere sollevato quello fisso. What you would like to say is that even if you have a perfectly smooth surface, the pressure on the other foot is so strong that compared to the light one on the other side, you know. Don Domenico dice che anche su una superficie liscia comunque la pressione su un piede è più forte che non la leggerezza dell'altro. So there is another big sensation on the other side. E questo è più utilizzato. I think it's a case of making sure that you're putting your attention on the moving foot, and if it begins to settle on the moving foot, the concentration will block these sensations out. Quindi è una questione di mettere l'attenzione sul piede che si muove. Perché in questo modo è come se tu bloccassi la, cioè se sei concentrato su quel piede è come se bloccassi le sensazioni dell'altro. Yeah, you lose. You can even lose the sensation of where you are, of the sounds and everything. Puoi anche perdere le sensazioni di dove sei, i suoni, tutto quanto. Mm. So there should be a continuous switching from one foot to the other. Yeah. It should be continuous. Quindi dovrebbe esserci un continuo spostamento da un piede all'altro. Yeah. So you're always aware of movement. Quindi sei sempre consapevole del movimento. Mm. Try. Yeah, prova. So we're coming to the end of time, and really just to complete these basic instructions, is there any questions around the eating meditation that you've been doing? Has anything arisen around that? Allora, qui stiamo arrivando al termine del tempo, quindi qualcosa ancora sulle istruzioni di base, cioè c'è qualche domanda riguardo o qualche osservazione riguardo alle istruzioni che ha dato base sul mangiare. Very good. Bene. So keep making the effort with eating, because remember we're dealing with a very basic psychology. Quindi continuate a fare questo sforzo dell'osservare il processo del mangiare, perché qui abbiamo a che vedere con una psicologia molto di base, molto fondamentale. And remember that all that psychology around eating translates into all areas of pleasures and joys. It's the same psychology. E questa psicologia intorno al mangiare poi si può trasferire su altre aree, diciamo, di gioie e di piacere. And the last warning is that sometimes we can really see all these distinctions and etc. We can make that very clear to ourselves. E un'altra ultima cosa è che a volte riusciamo a rendere tutte queste distinzioni molto chiare. Mm. But and then the meditator says, you know, well, I've seen everything, and they get lazy with the practice. Però ecco un avvertimento che il meditante può dire, beh sì, io ho già visto tutto, e poi diventa pigro nella sua pratica. Mm, but actually that can take you just in the process of eating, that itself can take you into the paths and fruits. Ma, in realtà anche solo osservare attentamente questo processo del mangiare può portarvi nel o godere del sentiero, dei frutti del sentiero. Mm, which are the, you know, the four paths of stream entrance. You all know those? Che sono le varie tappe nel sentiero, quello di colui che entra nella corrente, eccetera. E vi chiede se riconoscete gli stadi dell'illuminazione. No? Oh, well, maybe towards the end of the week I'll say something. Questa è la fine della settimana, ve ne parlo. L'ultima domanda relativa al mangiare è: cos'è la volontà? E io ho scritto magari lo sapessi, è come l'amore, perché io non so dare una definizione. Mm. The last question is what is will? Something like that? Yes, what is will? Non riesco a capire la domanda, e io non so che cos'è la volontà, cioè se lo chiede a me. So he doesn't know. You won't be able to answer this. No. The again, this question is just asking the meditator to make a distinction between the intention and the act. Questa domanda è all'intenzione, allo scopo di indurre il meditante a fare la distinzione tra l'intenzione e l'azione. The will, as far as I know, and I've asked other teachers, the Buddha doesn't describe the will. He only says the will and action are the same. Il Buddha, e ho chiesto anche ad altri insegnanti, il Buddha non descrive mai la volontà. Lui parla di Volontà e azione come se fossero la stessa cosa. And as I understand it, it's like when you throw a stone into the air. E come lo comprendo io, l'ho capita io, è come tirare una pietra per aria nell'aria. As far as I understand, you cannot separate the force from the stone. Da quello che ho capito, non si può separare la forza dalla pietra. I'm not so sure science yet understands what force is. E credo che anche la scienza non abbia ancora capito che cos'è la forza. If somebody here is a scientist and knows, come and tell me afterwards. Se qui c'è uno scienziato e lo sa, allora può venire a dirmelo dopo. Perché io ho il dubbio che la volontà sia tra l'intenzione e l'azione. His doubt is that will is between intention and action. Intenzione come cosa più, well, più vicina forse alla intelligenza primitiva che intende Dante, o all'intelletto, e la volontà che riesce a disturbare l'intenzione perché fa conto di un qualcos'altro che è esterno. Mi sono un po' perso. So he says that intention is closer to this intuitive intelligence that you were saying, and e la volontà è più vicino a qualcosa di esterno. Per fare closer to something outside of you. Per fare esempio, io ho l'intenzione di donare una cosa a una persona, però sapendo che ci sarà un altro osservatore, la mia volontà trasforma questo, cioè cambia l'oggetto di regalo per non disturbare questa triangolazione, per esempio. Non ho mica capito, ma scusa. Cioè, ho intenzione di dare un mazzo di fiori a Banca, okay. Però sapendo che tu potresti essere gelosa, gli do una campana nuova. Ah, oh, okay. Yeah. So he has the intention of giving you something, but since he knows that another person like me would be jealous about this, so instead of giving you flowers, he'll give you a bell. Yeah. So he thinks it works in the same way. Well, we can leave this because this comes into a talk that I usually give around dependence origination. Ecco, quindi possiamo per adesso sospendere un attimo la cosa perché rientra questo in un discorso che farà sull'originazione dipendente. Yeah. So, unless there are any other questions? Yes. Yes, a question. Is there a hierarchy of pleasures? Because, I mean, I have the feeling that there are different kinds of pleasures. And perhaps some pleasures are morally much more desirable than others. Morally. Quindi chiede se c'è una gerarchia tra i piaceri, perché ha l'impressione che ci siano alcuni piaceri che sono morally. Moralmente diverse. For instance, I saw there's a pleasure of the food, the pleasure of drink, the pleasure of alcohol, the pleasure of sex, the pleasure of nature, the pleasure of spiritual action. These are very different kinds of pleasure, I suppose. Quindi c'è il piacere del cibo, il piacere del bere, il piacere dell'alcol, del sesso, della natura, del piacere spirituale. Dice, c'è una differenza tra un piacere e l'altro. And then also, let's say when, this is in relation to what she was saying, when you've enjoyed nature, surely it's not such a bad thing to be attached to nature. Well, and, can we, again... And does it create pain? As others do, I mean, the experience of nature that is outside nourishes you until the next time you happen to have another such experience. Could you put that as a question? Because that's a weekend question now. All right. Yeah. But just very simply, all these questions arise, bring us to the question of conduct. And morality. Tutte queste domande ci portano al problema della condotta morale. And that's another talk. E quello è un altro discorso. So, can we end our evening practice, evening talk, evening discussion, and just to encourage you to, in between now and the next sitting, it's in about 20 minutes or so, 25 minutes, just to gauge your where you are. Quindi terminiamo qui il discorso e vi invito da adesso fino alla prossima seduta a misurare un attimo la vostra pratica per sapere dove siete. If the mind has become you know, excited by the discussion and talk, then just give it time to relax by doing much more that abiding in the present moment. Quindi se la mente si è un pochino agitata da queste discussioni che abbiamo fatto questa sera, allora datele la possibilità di rilassarsi attraverso questo dimorare nel momento presente. If you feel fairly calm and steady, then do some walking meditation. Ma se vi sentite abbastanza calmi e stabili, allora fate un po' di meditazione camminata. And if you're doing walking meditation and the bell goes, you can come in obviously at a faster speed. Quindi se mentre state facendo la meditazione camminata sentite la campana, allora potete rientrare in sala, ovviamente a un passo un po' più veloce. But make sure that you maintain just that steadiness. Assicuratevi di mantenere quella stabilità. So I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo augurarmi che le mie parole siano state di qualche aiuto. And that our discussion urges you towards even greater commitment. E che questa nostra discussione vi spinga verso un maggiore impegno. May you attain the bliss of Nibbana sooner rather than later. E che possiate ottenere la beatitudine del Nibbana prima piuttosto che poi. Ma prima piuttosto che poi, di quale ora? At what time? Salve, salve, salve. So we'll continue.